Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Effetto giorno di Alessio Maurizi. Emergenza Covid verso il nuovo DPCM, stop a feste private e calcetto, chiusura anticipata per i locali. In Cina test per 9 milioni di persone, a Parigi il 17% dei tamponi è positivo, dagli Stati Uniti 500.000 di investimenti per il vaccino AstraZeneca. A Taranto apre il cantiere per il nuovo ospedale Conte, come per il ponte di Genova bisogna fare presto. Premio Nobel per l'economia Paul Milgrom e Robert Wilson, gli americani che hanno innovato la teoria delle aste. Buongiorno ad Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie. A metà giornata il Consiglio dei Ministri con le attese nuove misure anti-Covid si terrà questa sera, lo ha annunciato poco fa il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Governo dunque verso una nuova stretta in vista della scadenza delle vecchie misure il 15 ottobre. Stop agli sport amatoriali di contatto, limiti orari per i locali, mentre per minimizzare i disagi si accorcia a 10 giorni la durata della quarantena. Dal Comitato Tecnico Scientifico arriva il via libera alla quarantena snella per i positivi al Covid, che passa da 14 a 10 giorni con un solo tampone negativo per uscire dall'isolamento. Ma per scongiurare un nuovo lockdown, sul tavolo del governo c'è anche una serie di misure restrittive. Un giro di vite sulle feste private, lo stop ad assembramenti e movide in strade e piazze e un nuovo divieto per gli sport da contatto. In cantiere anche incentivi allo smart working, con un tetto che passerebbe dall'attuale 50 al 70% per il pubblico impiego. Nodi sui quali si esprimerà la cabina di regia governo enti locali, che si riunirà oggi pomeriggio per discutere i contenuti del nuovo decreto Covid. Una serie di misure restrittive che segneranno, spiega il ministro della salute Roberto Speranza, un cambio di fase. Ma da Attilio Fontana, governatore della Lombardia, arriva il rifiuto a qualsiasi ipotesi di chiusura totale. Oggi avremo un incontro come cabina di regia delle regioni con il governo. Quello che è certo è che io chiederò che non si parli neppure di un altro lockdown. Rosana Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Nessuna modifica invece ai limiti di pubblico per gli spettacoli, lo ha detto oggi il ministro per i beni culturali e per il turismo Dario Franceschini, dopo che si sono rincorse varie anticipazioni in questo senso nel DPCM. Ha detto Franceschini, saranno confermati i limiti attuali, con la possibilità però da parte delle regioni di derogare. E il numero dei nuovi positivi è rimasto sopra i 5.000 casi anche nel fine settimana, a fronte però di un calo nel numero dei tamponi. Ieri meno contagi e meno tamponi, sono stati 5.476 i nuovi casi. Tre le regioni con gli incrementi maggiori, Lombardia, Toscana e Campania. Qui a Napoli, nuovo focolaio in una residenza per anziani, 48 positivi, quasi tutti asintomatici. RSA, che sono stati oggetto nelle scorse settimane di oltre 1.000 controlli da parte dei NAS, risultando irregolari nel 20% dei casi, 18 le strutture sequestrate o chiuse. I NAS hanno anche bloccato una sessantina di siti web che promuovevano prodotti spacciati come farmaci anti-Covid. Intanto il comitato conferma, i tamponi sono il numero insufficiente per fermare i focolai, ma dal virologo Andrea Crisanti a 24 Mattino, semaforo rosso sull'affidabilità dei test rapidi. I tamponi rapidi hanno una sensibilità tra il 65 e l'80% rispetto ai tamponi normali. Il tampone rapido non può sicuramente essere utilizzato per circoscrivere e eliminare i focolai. C'è intanto il primo calciatore positivo nel Pescara, è il terzino Raul Bellanova, attualmente impegnato con la nazionale Under 21, così come Riccardo Marchizza, difensore dello Spezia Calcio, anche gli positivo. Contagi anche tra gli sbarcati ieri a Roccella Ionica in Calabria. Sono 21 su 57 migranti positivi, tutti già posti in isolamento. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La diffusione a livello globale, adesso la Gran Bretagna si prepara a un lockdown su tre livelli di misure diverse. Anche in Francia, nella zona di Parigi, crescono i positivi, mentre la Cina, dopo il focolaio di una decina di casi a Qingdao, annuncia una campagna per fare test a 9 milioni di residenti. Al ritmo di oltre 120.000 casi al giorno continua a correre il virus in Europa e l'allarme è soprattutto in Gran Bretagna, Spagna e Francia. Il premier britannico Boris Johnson nel pomeriggio annuncerà in Parlamento il piano di emergenza su 3 livelli di lockdown con restrizioni a seconda dei casi registrati nelle varie zone del paese. Nella regione di Liverpool, dove si registrano 900 contagi su 100.000 abitanti, si va verso la chiusura di palestre e locali pubblici. Massima allerta in Francia, dove sabato il numero di contagi è arrivato quasi a quota 27.000 e dove nella regione di Parigi il 17% dei test è risultato positivo, un dato mai raggiunto, spiega il direttore dell'Agenzia regionale di salute francese. E il presidente della Repubblica Macron si rivolgerà mercoledì sera ai francesi. E intanto anche a Montpellier e Tolosa chiuderanno bar, ristoranti, piscine e discoteche. In Spagna restrizioni rafforzate, in Catalogna, dove le autorità hanno invitato le aziende a incoraggiare lo smart working, e in Navarra, dove gli incontri saranno limitati a 6 persone, mentre bar e ristoranti chiudono alle 22. Fuori dall'Europa preoccupa l'India, dove i contagi hanno superato i 7 milioni, mentre gli Stati Uniti restano il paese più colpito, seguito dal Brasile. Comincia a dare i suoi frutti invece il lockdown reimposto in Israele nelle scorse settimane. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. E oggi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, insieme ad altri 8 ministri, si trova a Taranto per un'iniziativa di rilancio della città, la posa della prima pietra del nuovo ospedale. Taranto è una perla del Mediterraneo, ma noi non possiamo permettere un paese che ha così tante ambizioni che una sua perla possa così ormai essere degradata a tal punto da non riuscire più ad essere un faro nel Mediterraneo. Queste le parole del premier Giuseppe Conte oggi nel corso della sua visita istituzionale a Taranto, dove ha partecipato anche alla posa della prima pietra nel cantiere in cui sorgerà il nuovo ospedale San Cataldo, un appalto da 22 milioni di euro per una struttura da 715 posti letto con 70 ambulatori e 19 sale operatorie. L'ospedale diventerà un punto di riferimento scientifico e professionale non solo per l'area ionica, ha detto il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, ma quella al cantiere del San Cataldo è stata solo la prima tappa della giornata tarantina del premier, accompagnato da 8 ministri. Subito dopo l'inaugurazione del corso di laurea in medicina nella ex sede della Banca d'Italia. Nel pomeriggio infine l'incontro con i sindacati FIM, FIOM e WILM sulla questione della ex Ilva. E la visita del premier punta proprio a rilanciare la città pugliese per aprire una nuova pagina dopo l'Ilva. L'idea è quella di dare il via ad una riconversione oltre l'acciaio, segnare un cambio di passo e non perdere la scommessa per un rilancio economico, sociale ed ambientale. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Pagina economica, un recupero più forte del previsto per l'economia italiana, lo conferma Banca Italia nell'audizione parlamentare sul DEF. Tuttavia, aggiunge Banca Italia, con l'evoluzione della pandemia tuttora in corso, le prospettive per i prossimi mesi appaiono ancora molto incerte. E un'occasione per fare il punto sulla situazione economica è oggi l'assemblea di Assolombarda, l'associazione territoriale lombarda di Confindustria, dove c'è inviata la nostra Anna Marino. Buongiorno Anna. Buongiorno a te Alessio, appello a non ritardare, arriva da qua, sui fondi europei al governo, lo lancia il presidente Alessandro Spada dal palco dell'Assemblea Generale di Assolombarda, dal titolo Ogni impresa qui è possibile. È appena conclusa questa assemblea, adesso lo sentite ora nel punto stampa Spada, assemblea che abbiamo seguito all'aperto nell'hangar dell'aeroporto di Linate. Spada parla di crisi senza precedenti a preoccupare le imprese Assolombarda e anche lo stato di salute dell'economia, soprattutto oltre gli strumenti di sostegno, perché la cassa integrazione e lo stop ai licenziamenti non sono eterni. Così il presidente di Assolombarda, sentiamo. Vogliamo e dobbiamo immaginare un mondo oltre la cassa integrazione e il blocco dei licenziamenti, perché questa situazione non potrà essere estesa per sempre. Un appello ad agire al Parlamento, che lavori insieme al governo e opposizione, rivolgendosi anche al commissario europeo Paolo Gentiloni in collegamento, che sottolinea come la ripresa in Europa sia in corso ma sta rallentando e non è omogenea. Gentiloni ha rassicurato che il contributo europeo arriverà, non lo possiamo usare per le nostre cose ordinarie. E Spada fa eco al sindaco di Milano Sala, che dal palco poco prima aveva fatto appello per il MES. Sentiamo. Certo, l'Europa ci supporta per mitigare la crisi e progettare il futuro con l'aiuti del Recovery Fund e l'azione della BCE. E qui, siccome vedo anche altri politici, lo dico a tutti, prendiamo questi soldi del MES, perché la questione sanitaria non finisce domani mattina. Infine, ha chiuso poco fa l'assemblea al presidente di Confindustria Carlo Bonomi. Noi vogliamo dare i soldi ai lavoratori, ha detto, ma vogliamo fare i contratti in modo sostenibile. La locomotiva Italia deve riprendere a correre, vogliamo un'economia normale, un paese normale, ha concluso. E per ora è tutto. Grazie alla nostra Anna Marino. A proposito di economia, è stato assegnato oggi il premio Nobel per l'economia a due economisti americani, Milgrom e Wilson. Sentiamo perché. The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in memory of Alfred Nobel jointly to Paul R. Milgrom and Robert B. Wilson. Paul Milgrom, 72 anni, e Robert Wilson, 83, entrambi statunitensi e docenti alla Stanford University, sono stati premiati dall'Accademia delle Scienze di Svezia con il premio per l'economia in memoria di Alfred Nobel per i progressi nella teoria delle aste e per l'invenzione di nuovi sistemi di asta. Le aste sono oggi molto utilizzate, quelle online di eBay, ma anche l'organizzazione dei mercati dell'elettricità, i diritti di inquinamento da CO2, le operazioni di liquidità le banche centrali, le assegnazioni delle frequenze di TLC e gli slot di atterraggio. Secondo la giuria, gli studi di Paul Milgrom e Robert Wilson hanno migliorato le aste a vantaggio di venditori, acquirenti e contribuenti in tutto il mondo. Lo scorso anno il Nobel per l'economia era andato a Abit Banjare, Esther Duflo e Michael Kremer per l'approccio sperimentale e concreto nella lotta alla povertà globale. Alessandro Arona, Radio 24, Sole 24 Ore. Ancora una notizia di cronaca, chiusura delle indagini per la vicenda Uber Italy, già commissariata a maggio per questa inchiesta. Secondo il PM di Milano Paolo Storari, i rider erano pagati a cottimo 3 euro a consegna, derubati delle mance e puniti. Tra i 10 indagati figura anche Gloria Bresciani in qualità di manager di Uber Italy. E siamo alle 13:12 minuti allo sport, con un fine settimana appena trascorso in cui si sono celebrati due grandi macinatori di record. Tre adesso, sì, perché... Anche i Lakers, cioè, è stata la domenica dei mostri dello sport, dei mostri epocali, perché Hamilton che eguaglia Schumacher in casa di Schumacher, 91 Gran Premi a Nürburgring, Germania. Nadal che nemmeno vede Djokovic nella finale del Roland Garros, e sono 20 slam come Roger Federer, 13 a Parigi. Credo che, insomma, difficile immaginare che qualcuno potrà nel futuro, anche tra 1000 anni, battere questo record di 13 vittorie a Parigi. E poi nella notte LeBron James nell'anno di Kobe Bryant riporta i Lakers sul tetto del mondo, anche per lui numeri da leggenda, perché era la sua decima finale ed è il suo quarto titolo con tre squadre diverse in tre città diverse, quindi sono personaggi iconici e non sbagliano gli appuntamenti quando arrivano l'appuntamento con la leggenda, per l'appunto. Se tutti i fine settimana sportivi fossero così, Carlo, non sarebbe male. No, non sarebbe male. Anche perché poi possiamo mettere il calcio di contorno con lo 0-0 della polemiche, nazionale, un po' meno chiacchiere. Lo 0-0 della nazionale, c'è il Giro d'Italia che parla portoghese, ma in attesa delle grandi montagne, che chissà se si potrà andarci sullo Stelvio e sul Colle dell'Agnello alla fine del mese, alla fine della terza settimana di Giro d'Italia. Ieri allo Stelvio c'era -7 e nevicava, vedi tu. Grazie Carlo Genta. 13:14, noi ci fermiamo qua, facciamo un piccolo break e poi torniamo tra poco con tutte le altre notizie. Come sempre nella seconda parte di Effetto Giorno ripartiremo dall'annuncio del ministro per i beni culturali Franceschini, che ha detto nessun nuovo limite per gli spettacoli, per il settore degli spettacoli già in ginocchio. Sabato c'è stata la protesta, bauli in piazza, ne parleremo con uno dei rappresentanti di questo settore per cercare di capire cosa si può fare per non strangolare questo importante settore dell'economia italiana. 349-238-6666. A tra poco. Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi. Emergenza Covid, verso il nuovo DPCM, stop a feste private e calcetto, chiusura anticipata per i locali. Per gli spettacoli il ministro Franceschini chiarisce nessuna nuova limitazione. I lavoratori del settore però chiedono misure diversificate, ne parliamo tra poco. Premio Nobel per l'economia Paul Milgrom e Robert Wilson, gli americani che hanno innovato la teoria delle aste. 13:18. Eccoci qua ancora in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori, ed è con noi Maurizio Cappellini, membro dell'associazione Baulo in Piazza. Benvenuto. Buongiorno a tutti. Allora, l'associazione Baulo in Piazza, che come sapete sabato ha fatto questa scenografica protesta in Piazza Duomo a Milano, per riportare all'attenzione le condizioni del settore degli spettacoli, condizioni molto, molto difficili. Allora, siamo in attesa stasera, insomma, uscirà, l'ha detto Conte, ha annunciato il Consiglio dei Ministri, a meno di slittamenti, il nuovo DPCM, decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le misure, nuove misure anti-Covid restrittive. Ci saranno chiusure anticipate per i locali, probabilmente limite di partecipanti alle feste, alle cerimonie, 30 persone, limiti anche per quanto riguarda le feste private, per gli sport di contatto, amatoriali, calcetto in particolare, e poi si parlava anche dell'ipotesi di limitazione nel pubblico degli spettacoli. Però poco fa il ministro Franceschini ha detto no, smentisco categoricamente. Cappellini ha detto non è così, i limiti rimangono quelli che sono, 200 persone al chiuso, 1000 all'aperto, semmai saranno le regioni a poter derogare. Le chiedo intanto un commento subito su questa dichiarazione che sgombra un po' il campo dalle, come dire, dalle ombre peggiori per quanto riguarda il vostro settore. Ma ritengo comunque sia ancora una dichiarazione non chiara. Dall'ultimo DPCM del 7 di agosto c'è stato un continuo rimbalzo fra governo, regioni, le regioni che hanno adottato il rimando demandato dal governo, le Conti sono le dita di una mano, lo hanno adattato in maniera diversa e non funzionale, oserei dire, almeno al nostro ambiente, ovviamente. Sì. Non cambia granché. Perché adesso i numeri rimangono questi. Franceschini dice le deroghe sino ad oggi concesse con ordinanze regionali verranno fatte salve proprio con il DPCM. Quindi diciamo rimangono le norme nazionali, ma rimangono anche le limitazioni regionali, con diciamo un po' anche quella giungla di ordinanze che diceva lei. Certo. Qual è, Cappellini, lo stato un po' di questo settore? Insomma, ce lo vuoi ricordare, perché abbiamo parlato un po' di tutti i settori dell'economia, molto anche di spettacoli, però effettivamente questo è un settore che è praticamente fermo. È un settore che è di fatto in lockdown dal 9 di febbraio, sostanzialmente, se non per qualche episodio estivo più psicologico, più dimostrativo di qualche artista. Sì. Che ha fatto delle esibizioni in perdita assolutamente, per dare un segno di speranza e di sostegno ai suoi tecnici, gesto che abbiamo apprezzato ovviamente, ma gesto che è frutto appunto di un'emergenza che non può essere lo Stato, di un'industria che invece ha più di 570.000 addetti in territorio italiano che campano di questo e che hanno meno 95% delle entrate da febbraio ad oggi, che ha meno 90% degli eventi da febbraio ad oggi. I numeri sono impietosi, se si può usare questo aggettivo. Il sistema è al collasso, non solo dal punto di vista economico. Uno dei rischi più gravi di questa situazione è la perdita della professionalità. Non ci sarà più nessuno a breve che farà questo lavoro, non ci saranno giovani che cominceranno a fare questo lavoro, tra l'altro insomma, un lavoro che ha decisamente appeal sui ragazzi. E se dovessimo dire bene, da domani riaprite, non potrebbe non esserci più nessuno a farlo. È un settore che ha bisogno, necessita di programmazione, perché si basa solo sulle proprie gambe, fossero le gambe dettate dai biglietti di un concerto piuttosto di un privato che investe per la presentazione di un prodotto. E noi non possiamo riaprire domani. Non siamo bottegai, con tutto rispetto sto dicendo questa cosa, non siamo fornai che andiamo a prenderci la farina e facciamo il pane bene. No, ci vuole programmazione, ci vuole tempo, ci vuole organizzazione. Ecco. Quindi, Cappellini, ma quali sono anche i suggerimenti che date, le proposte che fate per cercare di superare questa situazione, che ha da un lato sicuramente limiti strutturali date proprio dalle capienze concesse per gli eventi, e su questo so che voi fate anche un invito a diversificare, per esempio nei teatri, nelle sale concerto grandi dove c'è spazio, dove c'è areazione, sistemi nuovi di efficienza anche dal punto di vista della areazione, si possono garantire capienze di pubblico anche superiori, no, a quelle normali, e quindi diversificare in base a questi criteri. Poi forse c'è anche un aspetto psicologico, mentale, di paura, no, culturale in questa fase, in cui le persone fanno fatica ad affacciarsi a questi spettacoli perché magari non vengono vissuti come un qualcosa di strettamente necessario, se ne può fare a meno. Che tipo di proposte fate per uscire da questo stallo? Allora, da punto di vista tecnico, come giustamente diceva lei, ci sono svariate proposte che vorremmo anche presentare, dimostrare, oserei dire, è impensabile che la regola possa essere la stessa numerica e disposizione per metro quadro dal teatro di provincia parrocchiale fino alla grande struttura da 12.000 persone, banalmente perché il ricambio di aria, il riciclo dell'aria, il distanziamento è molto più garantibile, per assurdo, in un posto molto più grande che in un posto molto più piccolo, e questo mi sembra quasi abbastanza scontato. Come si può dire che siamo 200, indipendentemente che se sia, faccio dei nomi, se posso, al teatrino di provincia o al grande palasport di Milano, Torino, Roma o via dicendo? Evidentemente questo è uno. Dal punto di vista psicologico, questo è un altro dei drammi che bisognerà affrontare. La gente non va, non sta più andando. Io sono andato al cinema settimana scorsa, forse eravamo dentro i sei, in una stanza gigantesca, perché la gente non ci va. Questo è un aspetto che va ricostruito. Questo si può solo ricostruire se si ricomincia a dare fiducia, se si dimostra che ci sono, che vengono prese tutte le precauzioni affinché si possa continuare a fare questo lavoro, e non solo noi a lavorare, ma che il pubblico abbia anche un diritto all'intrattenimento, al divertimento, che le aziende possano presentare i loro prodotti. È un circolo vizioso gigantesco, e dobbiamo ricominciare a farlo girare. Speriamo che questo accada il prima possibile. Io ringrazio Maurizio Cappellini dell'associazione Bauli in Piazza, grazie per essere stato con noi. Vedremo poi stasera se effettivamente non arriveranno, diciamo, dei cambiamenti in corso per quanto riguarda i limiti di capienza del pubblico negli spettacoli, limiti che hanno già contribuito ad allontanare ancora più di quelli che sono i limiti stessi le persone dalle sale. Come sentivate, effettivamente nei cinema la cronaca ci racconta di pochissime persone, quindi adesso diventa quasi uno dei luoghi più paradossalmente forse sicuri, no? Dove stare, meno affollati sicuramente. 13:25 minuti, è con noi Ferruccio Sanza, giornalista del Fatto Quotidiano, candidato per la Regione Liguria, candidato presidente, adesso consigliere di opposizione. Buongiorno Ferruccio, benvenuto. Buongiorno a voi, grazie. Per raccontare, Sanza, questa storia, che è la storia da un lato di un rischio grosso che si corre con la app Immuni, e dall'altro un po' anche le tortuose vie burocratiche che si affrontano nel caso della malattia Covid, perché tu hai avuto un figlio positivo. E di lì il racconto che poi hai scritto su Facebook con un post nel quale denunci una serie di cose, un aspetto forse poco raccontato, al di là appunto delle tortuose vie burocratiche che si devono affrontare in queste situazioni, una cosa che riguarda la app Immuni. Voi l'avevate scaricata tutti in famiglia, giusto? Sì, allora noi oggi adesso siamo 4 su 5 in casa malati, ma stiamo andando verso la guarigione, spero. E il punto è questo: io ho fatto questo post non ovviamente per parlare dei fatti miei, ma per cercare di dare una sveglia a quello, perché mi sembra che la situazione non sia percepita in quello che accade. Allora io ho chiamato, mi ha chiamato l'ASL dopo che mio figlio è risultato positivo, non hanno fatto il tracciamento, e questa è stata la prima cosa che mi ha lasciato di sasso, perché mio figlio frequenta la piscina, frequenta mille posti, mille luoghi in cui aveva visto decine di persone. Alla fine il tracciamento l'ho dovuto fare io, chiamando tutti. Cioè la ASL non ha fatto il tracciamento nei confronti degli incontri di tuo figlio? No, esattamente. E molte altre persone hanno fatto questo post che, con mia grandissima sorpresa, ha avuto più di 1,5 milioni di visualizzazioni, a più di Chiara Ferragni quasi. Moltissime altre persone mi hanno detto che non si faceva più, ma non parlo soltanto della Liguria, in Liguria senz'altro, ma anche in altre regioni non c'era il tracciamento. E poi la cosa che mi ha stupito più di tutte è il problema di Immuni, ma non è il problema dell'app Immuni, è il problema delle ASL, è il problema delle regioni. Esatto, perché io chiariamo detto... bene, l'app è una, diciamo, tecnologia che sta sul nostro cellulare, io l'ho scaricata, e che insomma in caso in cui si stia per a meno di 2 metri, più di 15 minuti con un positivo, può scattare l'allerta sul nostro cellulare, ma può scattare se effettivamente c'è l'avviso, no? Da parte del positivo. Nel caso di tuo figlio che cosa è successo? Cosa che ti ha sorpreso? Ho detto l'ASL, guardate che mio figlio ha Immuni, vi dico il numero di Immuni, così almeno potete avvertire, metterlo... Numero anonimo, chiaramente, il codice anonimo, certo. Mi hanno detto non sappiamo che cosa farcene. Allora io di fronte a questo ho alzato le braccia, perché ho detto qui mi arrendo, perché la nostra famiglia avevamo scaricato tutti Immuni e mi sono reso conto che se questo è quello che succedeva... Cioè, non sappiamo cosa farci con Immuni, è abbastanza clamoroso, sì, devo dire. Questo è stato, sì, ma questo, guardate, io non voglio fare assolutamente polemica, questo posto aveva il fine di cercare di sollevare un problema finché siamo in tempo per farlo. Allora, purtroppo, effettivamente, guardate, scusa... Vedo che nella mia regione, in Liguria, perdonatemi, ieri c'è stato un dato, 23 tamponi positivi su 100 delle persone tamponate per la prima volta, è un dato completamente fuori controllo, che è circa 15 volte più di altre regioni, e nessuno lo dice sostanzialmente. Siamo in una regione in cui 23 su 100 di persone tamponate per la prima volta sono positive. Vi rendete conto della soglia per tenere sotto controllo la malattia è il 3%. Sì. Ecco, a fronte di questo, io intanto ti ringrazio, Ferruccio Sanza, grazie per essere stato noi, per aver raccontato questa storia. Domani ne racconteremo un'altra che riguarda Immuni, però effettivamente i dati alla mano dicono che 8 milioni di download, però Immuni ha contribuito a trovare solo 13 nuovi casi di positività con il tracciamento, con il contact tracing. Evidentemente c'è qualcosa che non va, ma non nella app, probabilmente, questo è il punto toccato da Sanza, nel modo in cui le ASL non assorbono queste informazioni e non le diffondono per fare il tracciamento, altrimenti la app è inutile. 8 milioni su 44 milioni di device in Italia non sono tanti, ma non sono neanche pochi, si dovrebbe poter ottenere dei risultati migliori. Domani, ve lo anticipo, racconteremo un'altra storia, sempre sulla app Immuni, forse un pochino più positiva. 349-238-6666 è per i vostri messaggi. A tra poco. Effetto giorno. Ecco le notizie di oggi, emergenza Covid verso il nuovo DPCM stasera, stop a feste private e calcetto, chiusura anticipata per i locali. Dagli Stati Uniti 500 miliardi di investimenti per il vaccino AstraZeneca. A Taranto apre il cantiere per il nuovo ospedale, Conte, come per il ponte di Genova bisogna fare presto. Banca Italia, l'economia italiana meglio del previsto nel terzo trimestre, ma con la pandemia in corso prospettive incerte. Il punto di Alberto Orioli. La Banca d'Italia ha messo nero su bianco il perimetro psicologico della crisi che stiamo vivendo. La valutazione sulla nota aggiuntiva al documento di economia e finanza dice questo. Il governo ha fatto bene fino adesso, la situazione del terzo trimestre infatti sta migliorando e soltanto la produzione industriale farà un balzo del 30% nei mesi estivi, ma rimane comunque il peso dell'incertezza della crisi futura, che sta deprimendo la fiducia e diffonde paura, ansia pubblica, e questo riduce anche il potenziale di consumo. Un terzo delle famiglie che non hanno problemi annuncia che taglierà i consumi di beni non durevoli, e la percentuale diventa quasi del 50% per le famiglie in difficoltà economica. Sullo sfondo poi rimane il tema del debito, che tendiamo a dimenticare. È prossimo al 160% del PIL. La ripresa del prodotto interno lordo contribuirà sicuramente a ridurre una parte di quella percentuale, ma pesa un altro rischio. Finora le imprese hanno attinto a circa 90 miliardi di prestiti coperti da garanzia pubblica. In genere il 10% dei prestiti in dinamiche normali diventa sofferenza bancaria, e la Banca d'Italia ci dice che stavolta quella percentuale verrà superata, probabilmente di molto, e quelle sofferenze torneranno a diventare debito pubblico. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.